Prima edizione. Le 6:13, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Alcune notizie che arrivano dal Fondo Monetario Internazionale, dove parla il direttore generale Christine Lagarde e dice che il fondo è preoccupato per gli attuali rischi che gravano sull'economia globale. Dice: senza una soluzione della crisi dell'area euro, l'economia rischia di scivolare in una spirale negativa di calo della fiducia, crescita debole e poca occupazione. Parla su questi temi anche il presidente americano Barack Obama e dice: una recessione in Europa avrebbe un impatto sulla crescita e sull'occupazione americana. Questo il quadro delle dichiarazioni arrivate poco fa. Noi ci ritroviamo tra un attimo, subito dopo la viabilità, e daremo un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani. Prima edizione. Le 6:15, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Andiamo a fare un punto di quello che troviamo sulle prime pagine dei quotidiani italiani, ma anche qualcosina sui commenti che troviamo nei quotidiani internazionali in merito anche e soprattutto alle vicende italiane. E però appunto iniziamo dall'Italia, iniziamo dal Sole 24 Ore, che oggi, a differenza del solito, come sapete il lunedì di solito è un numero per così dire freddo, quello di oggi invece è un numero chiuso ieri in redazione con tutte le notizie di attualità e i commenti sull'attualità. Allora, il titolo principale è in carico a Monti: il paese si riscatti. Napolitano, è emergenza, le forze politiche diano largo appoggio, Berlusconi, non mi arrendo. Una sorta di editoriale appello del direttore Roberto Napoletano sul in corsivo in prima pagina, dedicato proprio al professor Monti: guardi al mondo, parli all'Italia. Così il direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano. Naturalmente tutti gli approfondimenti ve li ricordo in merito anche in merito ai quotidiani italiani. Arriveranno dopo le 7:20, dopo il GR delle 7, con il nostro Alessandro Milan. In prima pagina anche un commento alla giornata politica di Stefano Folli: scelte difficili, la sfida della serietà. E questo è il titolo. Il Sole 24 Ore riporta anche le parole di ieri del capo dello Stato subito dopo le consultazioni, e il titolo che hanno scelto è: l'ora della prova, adesso responsabilità. E poi un intervento, un articolo scritto dall'ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi: ne usciremo più forti, dice, ma il tempo è finito. Dettagli anche su quello che si prospetta per la prossima manovra: priorità fisco, pensioni e lavoro. Vi ricordo che di questo ne parleremo più avanti proprio con i colleghi del Sole 24 Ore, per capire appunto che cosa si prospetta. Si parla di reintroduzione dell'ICI, che cosa vuol dire, quanto lo Stato conta di ricavarci e che cosa riguarderà esattamente. Andiamo al Corriere della Sera. In carico a Monti: crescita ed equità. Napolitano chiede uno sforzo straordinario per recuperare la fiducia. Il titolo del commento di prima pagina, il Corriere della Sera ha deciso di affidarlo a due economisti, Alberto Alesina e Francesco Giavazzi, che già avevano firmato nelle settimane scorse un'idea di riforme da fare. Sono Alberto Alesina appunto e Francesco Giavazzi, è un'agenda possibile, il titolo del commento. E anche Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella che firmano i primi tagli, iniziare dalla politica, ecco dove. A centropagina il titolo dedicato a Silvio Berlusconi: non m'arrendo, raddoppio. Video di Berlusconi, triste per gli insulti, basta faziosità. E ancora un commento dedicato a questo di Pierluigi Battista: una vera tregua senza rese dei conti. Interessante anche la storia che riporta il Corriere della Sera del vino in bottiglia di carta, un'innovazione ecologica che allarma enologi e amanti della tradizione. Segnala anche il Corriere della Sera che Las Vegas sta trattando per comprare il casinò di Venezia, per salvarlo. La Repubblica: Monti, l'Italia si riscatterà, questo è il titolo scelto. Napolitano gli dà l'incarico, basta faziosità, non è un ribaltone, l'addio di Berlusconi in TV. L'editoriale è a firma del direttore Ezio Mauro. Si intitola Il governo del presidente. Concita De Gregorio firma un pezzo sull'ultimo videomessaggio, in onda l'ultimo videomessaggio. Claudio Tito, un diario della crisi. Il professore, il fattore tempo. Anche qua, titolo sulla manovra in arrivo, manovra da 25 miliardi. L'Unione Europea benedice la svolta, cura d'urto allo studio, Van Rompuy e Barroso, inizio incoraggiante. Questo il quadro dalla Repubblica, dove c'è anche un pezzo di Ilvo Diamanti che parla di fine della Seconda Repubblica. L'apertura della Stampa, Monti, crescita ed equità, ce la faremo. Napolitano, nessun ribaltamento del voto. Videomessaggio d'addio di Berlusconi, ci sono le tre foto in fila, molto efficace graficamente, dei tre protagonisti della giornata di ieri, nell'ordine: il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio incaricato e quello dimissionario, con alcuni virgolettati dalle loro frasi, e gli editoriali relativi. Antonella Rampino sul presidente Napolitano, il richiamo del Colle a recuperare fiducia. Fabio Martini su Mario Monti, il professore promette scrupolo e urgenza. E Michele Brambilla su Berlusconi, il volto buonista del comunicatore. Spazio anche ad altre notizie, a parte l'intervista interessante con Giancarlo Galan che si sfoga: Tremonti ci ha portati nel baratro. E poi notizie dall'estero con la Siria, assalto dei lealisti alle ambasciate, la polizia libera la favela dai narcos. E poi questo, la rivincita dei gentili, cioè di chi è gentile, fanno più carriere, la rivoluzione parte dalla Francia. Il Messaggero, l'apertura in carico a Monti, l'Italia si riscatti, servono crescita ed equità sociale, Napolitano recuperare la fiducia dell'Europa. Anche il Messaggero riporta l'intervento di ieri del Presidente della Repubblica. Poi Berlusconi, un titolo su Berlusconi che dice non mi arrendo, e infine anche le misure, naturalmente, il tesoro dell'Unione Europea, questo è il titolo, 3 miliardi e mezzo dal ritorno dell'ICI, editoriale di prima pagina, firma di Carlo Fusi, il primo banco prova. Due interviste, Matteoli che dice per noi ex DN era meglio il voto, e Follini che dice sbagliata quella piazza anticavaliere. Tra i giornali più politici questa mattina vi segnaliamo solamente i due di centrodestra, perché il titolo è praticamente equivalente, ossia il giornale titola non è finita, con dice Silvio raddoppia, altro che PDL, nei guai c'è Bersani, PD diviso tra il sì al professore Iveti CGL. Non è finita il giornale e non finisce qui, titola invece Libero. Veniamo adesso a dare un'occhiata ai quotidiani internazionali, iniziando a cercare di capire come la vedono negli Stati Uniti. Allora, il New York Times, il titolo del commento che riguarda le vicende italiane è: Mario Monti deve affrontare una battaglia in salita, uphill fight. Su questo ci sono interviste ad alcuni politologi ed esperti, e viene anche ricordata la storia di Monti come commissario europeo, che in parte, come sapete, si intreccia con le vicende americane, come è naturale, perché come sapete l'uomo che condusse da commissario europeo una battaglia per così dire epica nei confronti di Microsoft. Il New York Times ricorda anche in un altro servizio come la Francia stia guardando con preoccupazione alle vicende italiane per l'esposizione che hanno le sue banche anche verso il debito italiano, ma ricorda anche il New York Times che le banche americane sono molto esposte verso l'Europa e verso Germania e Francia in particolare, quindi tutte le tensioni che riguardano l'area euro naturalmente hanno un riflesso anche sugli Stati Uniti, di qui le preoccupazioni non a caso espresse anche questa mattina dal presidente americano Barack Obama, come vi abbiamo raccontato. Il Wall Street Journal titola sui rischi dell'euro che colpiscono le banche. Le preoccupazioni permangono, al di là naturalmente delle vicende italiane, dice il quotidiano. A causa dei credit default swaps e all'incertezza sul comportamento di questi in situazione di crisi. Cosa sono i credit default swaps? Ve lo ricordiamo, sono una sorta di assicurazione dal rischio di fallimento di uno Stato o di una società. Sono una sorta di assicurazione, quindi bisogna vedere come si comporteranno. Adesso la BCE deve agire, scrive in un commento Simon Nixon, che però chiarisce che tramutare la BCE in un prestatore di ultima istanza, come avrete sentito, ne ha parlato anche il presidente del Consiglio dimissionario Silvio Berlusconi nelle scorse ore nel suo video messaggio di ieri, senza però fare le riforme politiche, sarebbe un errore. La crisi che c'è in Europa in questo momento, scrive Nixon, è una crisi di governance europea, non è né una crisi del debito né una crisi di crescita. Il Financial Times titola con l'Italia che corre per portare Monti al governo, e sempre dall'Inghilterra, dalla Gran Bretagna, altri due quotidiani, il Telegraph, il commento dell'International Business Editor, insomma della persona che si occupa di business internazionale, di economia internazionale per Telegraph, e il titolo è abbastanza indicativo di per sé, perché Mario Monti needs a miracle. Il Mario Monti ha bisogno di miracolo. Naturalmente il tutto è corredato anche da un profilo dell'ex commissario europeo e adesso presidente del Consiglio incaricato. Interessante, sempre dalla Gran Bretagna, in particolare dal Guardian nella fattispecie, questo segnale che arriva in un editoriale, in un commento, che dice "The rise of technocracy", ossia la nascita, il sorgere della tecnocrazia. Allora, il mettere a capo dei governi esperti economici non è visto come un problema, ma come un'affermazione che queste nazioni vogliono dire anche business. E questo, naturalmente, il riferimento non è solamente italiano e all'incarico a Mario Monti, ma è un riferimento naturalmente anche alla Grecia, che, come sapete, ha adesso come premier incaricato ha l'ex vicepresidente della Banca Centrale Europea. Naturalmente anche i giornali francesi, anche i giornali spagnoli, come ovvio, perché poi se ne parlano gli inglesi, figuratevi chi è dentro l'euro, dedicano ampio spazio alle speranze per l'arrivo del nuovo governo Monti. Prima edizione. Sono le 6:35 minuti e 26 secondi, è il momento di Italia in controluce, ci ritroviamo subito dopo per capire che cosa potrà contenere la nuova manovra in arrivo, e poi parleremo più strettamente di politica. Italia in controluce. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchesi, oggi è il 14 novembre. Iniziamo oggi un viaggio tra i cosiddetti pretacci, i religiosi che vivono nelle periferie delle grandi città italiane e lavorano a fianco degli ultimi della terra e degli emarginati. Lui si chiama Don Gino Rigoldi, vive a Milano e ha appena scritto un libro, Io Cristiano Come Voi. Lo ha intervistato Katia Caramelli. Dagli anni 70 fa il cappellano al carcere minorile Beccaria di Milano. Don Gino Rigoldi, sacerdote dal 1967, non usa mezzi termini nel libro Io Cristiano Come Voi. Chi non ha capito che la ricchezza è un grave peccato, chi pensa che ci siano uomini e donne di serie A, di serie B, è proprio fuori dalla fede, ma bestemmiano Dio e dicono ma io sono il difensore, ma quando mai? Perché Dio ha detto siete tutti figli e figlie mie, che è tutti uguali. Nel volume Edizioni Paoline, Don Gino propone una serie di riflessioni scaturite, dice, dal grande amore per Gesù, ma anche da un sentimento di preoccupazione per un cristianesimo che, a suo avviso, si allontana spesso dal messaggio evangelico e si fa abitudine, regole da seguire, divieti, moralismo. C'è bisogno dunque di tornare al senso vero della fede, partendo da questo poi rinnovare la Chiesa. Mi pare che nella Chiesa è evaporato Gesù Cristo in Dio, sono venute fuori una serie di regole che secondo me forse un po' dipendono anche dal Vangelo, ma sono molto ragionamenti umani, molto di buon senso, ma qualche volta mi pare che siano, diciamo, poco evangelici. Invece vorrei che se ritornassimo all'origine, noi preti, noi cristiani, siamo fedeli di Gesù Cristo e non ci inventiamo la vita da soli, no? La seconda cosa che io noto è che questa Chiesa è diventata un'istituzione, cioè le sue autorità, i suoi riti, le sue anche grandiosità. Secondo me sarebbe ora di tirar via i pizzi, le mitre, quei gioielli lì, sono cose dell'epoca barocca che andrebbero eliminate, però vabbè, ci sono ancora. Però mi pare che il linguaggio che usa, e per quel che riguarda la cosiddetta legge evangelica, e per quel che riguarda tutta la parte, diciamo, della vita sessuale e matrimoniale, e su diversi altri argomenti, sia così lontana dal vissuto della gente da essere sentita proprio come estranea e qualche volta come arrogante in una maniera impropria. Forse è anche possibile ragionare cristianamente con scelte diverse da quelle che fino adesso sono praticate, insomma, no? Il discorso anche dei sacramenti come la confessione, che è affondato completamente perché è stato costruito su delle banalità. Ho detto le bugie, mi sono masturbato, ho ricevuto pensieri cattivi, non ho fatto le preghiere. Gesù Cristo, per le cose che ha fatto, che ha detto e fatto, l'hanno coppato, e noi, gente adulta con responsabilità, viene a confessarsi da me e mi dice che non è andata a messa la domenica e che ha detto le bugie. Ma io non gli do mica la soluzione, questa gente qui, è mica una roba cristiana. Katia Caramelli, Radio 24, il Sole 24 Ore. E la Italia in controluce, torniamo oggi 13.30 per la seconda edizione su Radio 24. Sono le 6:39 minuti e 14 secondi. Di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Veniamo dunque al cuore dell'azione di governo. In realtà, prima ancora di avere un governo, perché alcune cose sono, per così dire, imposte. Salvatore Padura del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno a tutti. E grazie per essere con noi, in particolare perché ieri avete chiuso un numero caldo, quando di solito appunto il Sole 24 Ore del lunedì è un numero un po' più freddo, e insomma sei tra le persone che ci ha lavorato sopra. Come si sa, i giornali chiudono tardi, quindi in particolare se sei con noi a quest'ora ti ringraziamo. Allora, molti dettagli naturalmente li trovate proprio sul Sole 24 Ore di oggi, oltre che molti dettagli che riguardano la legge di stabilità già approvata, tra l'altro altro con commenti degli esperti, insomma tutto, vi potete decisamente sbizzarrire sulle pagine del quotidiano oggi. Detto ciò, che cosa si prospetta per le prossime settimane? Cosa c'è nell'agenda di qualsiasi governo nasca, Salvatore? Ma insomma, diciamo, nell'agenda di questo governo sappiamo che ci sono alcuni impegni già presi con l'Unione Europea, dai quali certamente dovrà partire l'azione di governo. Quindi diciamo, c'è una lettera che l'Unione Europea ha inviato all'Italia richiamando l'attenzione sull'esigenza di un'azione importante sul fronte del contenimento dei costi, del controllo dei conti pubblici, ma anche in direzione del rilancio dell'economia, dello sviluppo, eccetera. C'è una risposta mandata dall'Italia all'Unione Europea, la famosa lettera di Berlusconi all'Unione Europea, con la quale l'Italia, insomma, ribadisce la volontà di portare avanti le riforme che sono state avviate e altre che dovranno essere fatte. Mi sembra che quindi l'azione del nuovo governo da qui dovrà partire. Certo, diciamo, in qualche modo il nuovo governo si troverà anche in eredità un fardello di adempimenti, di atti, di cose da fare legate anche a tutte quelle cose che il governo attuale, il governo Voi Salvatore scrivete 300 decreti di attuazione ci sono ancora da fare per il nuovo esecutivo, eredità del precedente governo. Sì, esatto. Sul giornale di oggi abbiamo fatto una piccola inchiesta, un'inchiesta proprio su questo aspetto qui, cioè arriva un nuovo governo che avrà un suo nuovo programma, un programma che ovviamente punterà tanto su fisco, sulle pensioni, pensioni, sul lavoro, eccetera, eccetera, ma il nuovo governo dovrà in qualche modo anche completare tutti quei percorsi che sono stati avviati dal precedente. Solo per attuare le manovre che sono state fatte quest'estate sono necessarie alcune centinaia, un paio di centinaia, 200, 250 decreti, quindi insomma sarà comunque un periodo di super lavoro, diciamo, per il governo e anche per i ministeri, che in qualche modo saranno e anche per voi, e anche per i lettori, che poi dovranno ovviamente informarsi, confrontarsi con queste cose. Ultima cosa che ti chiedo, ci spieghi questa questione dell'ICI o comunque si chiamerà? Ma dunque, ieri è tornata alla ribalta l'ipotesi che per recuperare quei, insomma, un po' di soldi che mancano entro fine anno, sicuramente i conti pubblici italiani necessitano di un nuovo intervento. Allora, una delle cose alle quali si starebbe guardando, ovviamente usiamo il condizionale, però insomma mi sembra una cosa abbastanza credibile, può essere quella della reintroduzione dell'ICI sulla prima casa. L'ICI sulla prima casa è stata, diciamo, abolita in due passaggi successivi. Inizialmente nel 2006 il governo di centrosinistra aveva tolto l'ICI sulla prima casa, diciamo, alle persone con reddito, ai contribuenti con reddito più basso. Berlusconi nel 2008 ha completato questo processo e l'ha abolita completamente a tutti. L'ICI sulla prima casa vale circa 3,5 e 3,8 miliardi di euro, quindi una delle ipotesi concrete sulle quali insomma ci potremo confrontare nei prossimi giorni è quella del ritorno dell'ICI. Certo, è un pacchetto complicato perché nel frattempo il federalismo ha anche ridisegnato completamente il prelievo sulla casa, quindi ad esempio è previsto che dal 2013, poi in assenza di decreti di attuazione eccetera eccetera, dovrebbe partire una nuova forma di imposizione sulla casa, l'IMU, l'imposta municipale unica, e quindi bisognerà, ecco, un pochino capire come queste due esigenze, cioè possano mettersi insieme. Grazie esatto. Salvatore Padura del Sole 24 Ore per essere stato con noi. Comprate il quotidiano in edicola per capirne di più com'è naturale, e buona giornata. Grazie. Allora, con quest'audio introduco Gino Scaccia, ordinario di diritto costituzionale, insegna alla LUIS. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Prima edizione. L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. Qui ho imparato da mio padre e dalla vita il mio mestiere di imprenditore. Qui ho anche appreso la passione per la libertà. L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze. Allora, due voci diverse. La prima naturalmente è quella del 94, l'altra è quella di ieri, nella quale Berlusconi cita se stesso nel discorso del 94. Professor Scaccia, allora, che effetto le fa? L'effetto di una chiusura del cerchio? È quello che si sta leggendo e quello che si sta sentendo. Indubbiamente assistiamo evidentemente alla fine di un ciclo politico, ma piuttosto mi pare che si possa dire che stiamo sperimentando che cosa è stato il bipolarismo in Italia in questi anni, e quindi non è soltanto la crisi dell'uomo politico Berlusconi con le polemiche che ha sempre suscitato questa personalità indubbiamente eccezionale, ma è soprattutto la crisi di un sistema politico che non è riuscito a riformarsi e che, spinto dalla pressione fortissima di questi eventi internazionali, i mercati e gli operatori finanziari che hanno messo sotto pressione, gli speculatori che hanno messo sotto pressione il nostro debito sovrano, ha in realtà portato alla luce i suoi vizi, l'incapacità di avviare delle riforme che in altri paesi europei sono state in questi anni avviate e di mettersi sullo stesso piano degli altri nostri competitori, avendo ormai perduto quello che era stato il nostro principale strumento per renderci competitivi, cioè svalutare la moneta. Avendo tutti un'unica moneta, avremmo dovuto avviare un profilo di riforme che ci mettesse sullo stesso terreno degli altri nella politica del lavoro, nelle pensioni, nella produttività, nella competitività, nella modernizzazione dell'università, nella modernizzazione del nostro apparato burocratico, amministrativo, fiscale. In questi anni non ci siamo riusciti ed oggi vediamo tutti insieme questi nodi che si presentano, questi problemi che si presentano unitariamente e che indubbiamente vengono a determinarsi in un momento eccezionale. Professore, brevissimamente, perché abbiamo pochissimo tempo, in circostanze eccezionali si richiedono decisioni eccezionali, tra cui questo nuovo ruolo del Presidente della Repubblica. Le chiedo di sintetizzare il più possibile. Sì, c'è sempre stato un oscillazione della banda tra il Presidente della Repubblica e il sistema costituzionale, il sistema di governo, nel senso che i poteri del Presidente, si potrebbe dire con una formula riassuntiva un po' schematica, sono inversamente proporzionali rispetto alle forze politiche, alla coesione, alla capacità delle forze politiche di stabilire un equilibrio. Abbiamo visto il primo governo del Presidente già nel 1953, nel cosiddetto governo balneare di Pella. Il Presidente della Repubblica, in un momento di crisi e di difficoltà, viene ad assorbire su di sé i vuoti di potere, di esercizio del potere da parte degli altri soggetti politici. Qui lo abbiamo visto in maniera clamorosa, perché le forze politiche di opposizione e le forze politiche che esprimevano la maggioranza, sotto la pressione esterna dell'Europa, della speculazione finanziaria, hanno sostanzialmente delegato non solo la gestione della crisi, ciò che è ordinario, ma anche l'individuazione di un candidato, l'individuazione di un nuovo governo al Presidente della Repubblica, che ha agito in maniera ineccepibile sotto questo profilo e ha anche dalle prime dichiarazioni ha parlato della necessità di restituire un profilo unitario alla nostra dimensione di bene comune, ha detto che non è il tempo delle rivalse faziose, delle sterili recriminazioni, cioè ha interpretato quello che è il ruolo che la Costituzione gli assegna di rappresentare l'unità nazionale. Certo, dobbiamo essere consapevoli che questa non è una crisi di governo ordinaria come le altre, la potremmo assimilare a quella di Pella di cui ho parlato, il governo Pella del 1953, ma forse più vicina a noi i governi Amato e Professore. Ciampi. Sì, i governi Amato e Ciampi. Mi sembra chiarissimo, noi purtroppo dobbiamo chiudere, io la ringrazio per essere stato con noi, grazie a Gino Scaccia, ordinario di diritto costituzionale che insegna alla LUISS, grazie a Peter Bescapè in regia, Viola Bottoni in redazione, grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia, buona giornata.